vogliamo prendere posto, buonasera a tutti. Mi scuso per questo consueto ritardo romano, signor Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, signor Sottosegretario alla Giustizia, rappresentanti del Parlamento Europeo e del Parlamento Nazionale, del Consiglio e della Commissione Europea, delle agenzie e degli organi dell'Unione Europea, signori studiosi, docenti, avvocati e magistrati, signore e signori, a nome della Fondazione Basso vi porgo il benvenuto a questa conferenza, a questi 3 giorni di intenso lavoro che ci attendono. Desidero ringraziare in particolare tutti i relatori che hanno accettato il nostro invito e soprattutto l'OLAF, l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode, la Commissione Europea, che hanno consentito questa conferenza contribuendo a finanziarla. Come vi è noto, il Trattato di Lisbona, all'articolo 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, prevede l'istituzione con procedura legislativa speciale di una procura europea per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e in particolare per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di questi reati. Prevede anche che si possano estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta alla criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale. Si tratta dell'approdo di un cammino ultradecennale inserito nel più ampio ambito della creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, e questo viene fatto per rimediare alla debole tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea, che oggi è affidata alle iniziative e alle variegate procedure dei 27 Stati membri dell'Unione. E a questo proposito voglio ricordare la proposta di direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che è in discussione in sede legislativa davanti al Consiglio e al Parlamento europei. L'articolo 86 menziona anche sia Eurojust, che è l'organo di coordinamento delle indagini giudiziarie, da cui partire per l'istituzione della Procura europea, sia Europol, che coordina le indagini di polizia e che potrebbe collaborare alle indagini transnazionali del futuro procuratore europeo. E va tuttavia ricordato che fin dal 1999 è operativo OLAF, che svolge indagini amministrative anche presso gli Stati membri, in collaborazione con gli organi investigativi locali, sui casi di frode ai danni del bilancio dell'Unione Europea, oltre che sui casi di corruzione e grave inadempimento agli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee. L'esperienza di queste attività investigative è dunque assai utile per individuare i problemi da affrontare ai fini di una più adeguata regolamentazione della futura Procura europea. La Fondazione Basso da anni dedica studi e ricerche al tema dell'integrazione europea e in particolare al tema del rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione, che sta monitorando costantemente attraverso un osservatorio permanente e documenta attraverso un sito European Rights in 3 lingue. È perciò che questa conferenza internazionale è specificamente dedicata alla protezione dei diritti fondamentali e dei diritti procedurali dalle esperienze investigative dell'OLAF per l'appunto alla istituzione del procuratore europeo. L'obiettivo della conferenza è di sensibilizzare giudici, pubblici ministeri, avvocati, funzionari a livello europeo e nazionale sull'istituzione della Procura europea. Si prenderanno in esame, proprio a partire dall'esperienza delle investigazioni transfrontaliere dell'OLAF, i problemi riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali e in particolare i diritti delle persone sospettate. Il dibattito coinvolgerà giuristi, esperti di diritto penale e di procedura penale a livello europeo e nazionale, accademici, membri delle alte corti, rappresentanti istituzionali dell'Unione Europea, professionisti e investigatori di comprovata esperienza. Approfondirà le sfide che gli Stati membri saranno chiamati ad affrontare per adeguare i propri ordinamenti nazionali al nuovo organismo. Particolare attenzione sarà dedicata a vari aspetti del diritto penale, la definizione dei reati in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e del diritto processuale penale, per esempio la raccolta delle prove, la validità delle prove, il diritto a un difensore, eccetera. Si affronterà la questione della collaborazione, del coordinamento tra il procuratore europeo e gli altri attori coinvolti sia a livello nazionale che a livello europeo. La conferenza avrà anche lo scopo di rilanciare il dibattito italiano sul procuratore europeo, in modo da dare un contributo concreto alla preparazione della presidenza italiana dell'Unione Europea dell'anno prossimo. Abbiamo da poco purtroppo appreso che un urgente impegno ha impedito al Ministro della Giustizia di essere qui presente. Lo rappresenta il sottosegretario avvocato Giuseppe Barretta, che ringrazio. E intanto ringrazio in particolare il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha voluto essere presente, al quale do la parola. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Sono io che ringrazio Elena Pacciotti, Presidente della Fondazione Elio Elisli Basso, per questo invito e per questa opportunità di partecipare a un dibattito di straordinaria importanza e rilevanza, qual è quello relativo all'OLAF e alle prospettive dell'istituzione del procuratore europeo. Forse siamo arrivati al momento della verità, quello in cui decenni di progetti a cui faceva riferimento anche la Presidente Pacciotti, assistiti da azioni politiche e istituzionali, trovano finalmente un luogo di realizzazione. L'Unione Europea sarà dotata di una autorità giudiziaria requirente centrale direttamente operativa. In questo mese la Commissione Europea adotterà la proposta di regolamento relativa all'istituzione del procuratore europeo antifrode, comunemente individuato dal poco suggestivo acronimo EPPO, European Public Prosecutor Office. La strada fin qui percorsa è stata molto lunga, lo accennava già Elena Pacciotti. Al tempo del Trattato di Maastricht la materia penale non era oggetto di intervento diretto dell'Unione, il terzo pilastro si occupava soltanto di cooperazione penale con l'obiettivo limitato di favorire l'efficacia delle interazioni tra gli ordinamenti e l'adozione di atti normativi finalizzati solo alla armonizzazione tra i diversi sistemi, come accadde per il mandato di arresto europeo. Il Trattato di Lisbona ha previsto poi la possibilità di adottare direttive vincolanti per gli ordinamenti nazionali, contenenti norme minime per la definizione di reati di particolare rilievo e di dimensione transnazionale. Si è quindi passati dal profilo processuale a quello sostanziale, dalla cooperazione fra ordinamenti alla integrazione. Alle novità normative si è accompagnata l'evoluzione degli strumenti operativi. Da oltre un decennio opera l'OLAF, che è effettivamente un ufficio europeo, disciplinato in maniera da garantire autonomia e indipendenza dei propri componenti rispetto agli stati di provenienza e, entro certi limiti, anche rispetto agli organismi eurounitari. Ma l'OLAF, anche questo lo ha accennato la Pacciotti, è pur sempre un ufficio di investigazione amministrativa, non ha poteri né competenze giudiziarie. Anche Eurojust non ha funzioni né poteri giudiziari, è un organo collegiale, come è noto, composto da membri nominati dai singoli stati, che opera secondo uno schema di cooperazione orizzontale e non di integrazione verticale. E anche se l'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede la possibilità di attribuirgli funzioni di avvio delle indagini penali, il suo compito principale rimane quello di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'indagine e dell'azione penale. E infine il procuratore europeo. Il già citato articolo 86 gli attribuisce il compito di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In questo settore il procuratore individua, persegue e rinvia a giudizio gli autori dei reati, esercita l'azione penale dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale. È obiettivamente una svolta anche per la previsione di ricorrere alla cosiddetta cooperazione rafforzata. Comincia a delinearsi in Europa un corpus di diritto sostanziale in cui sarà destinato ad operare il procuratore europeo. La norma del trattato dice che il procuratore europeo deve essere costituito a partire da, in inglese suona from, Eurojust, richiamando quel cammino di cooperazione fin qui percorso. Ma il salto oggi è qualitativo. Non si tratta più di coordinare indagini altrui, di facilitare contatti tra autorità di sistemi diversi, bensì di assumere direttamente la responsabilità dell'indagine e dell'azione penale. I profili problematici sono numerosi e io mi scuso sin d'ora se, peraltro credo attenendomi alla impostazione del mio intervento, che è un intervento di saluto e di introduzione dei lavori, e dunque se prevarranno gli interrogativi in quello che dirò brevissimamente rispetto alle asserzioni, ma credo che questa sia la fase in cui porci gli interrogativi anche per orientare il nostro lavoro di studio e di approfondimento, il vostro lavoro di studio e di approfondimento. Che ruolo avrà il pubblico ministero europeo? Si relazionerà direttamente con la polizia giudiziaria interna? Che tipo di richieste formulerà al giudice nazionale? Con quale legge processuale? Come sarà definita la sua competenza e quali i suoi rapporti con la magistratura requirente interna? Dal punto di vista processuale, un tema enorme è la composizione della asimmetria oggi esistente tra la competenza continentale del pubblico ministero e quella disciplinata dalle regole di ciascun paese del giudice. Sarà forse necessaria l'istituzione di una ulteriore sede giurisdizionale sovranazionale che definisca gli eventuali conflitti positivi o negativi concernenti la individuazione del Tribunale nazionale competente a giudicare i procedimenti iniziati dal procuratore europeo? Un principio fondamentale nel nostro ordinamento, quello dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, sarà ritenuto derogabile dalla normativa europea? E non minori problemi pone la questione ordinamentale. Il nostro sistema, come è noto, prevede un potere giudiziario unitario, comprensivo della funzione requirente di quella giudicante, garantito come indipendente ed autonomo, un potere diffuso, privo di articolazioni gerarchiche interne. Ebbene, altrove in Europa troviamo, come è noto, ordinamenti in cui non esiste una magistratura professionale, in cui vi sono sistemi dove la funzione requirente è separata da quella giudicante, in altri dove la funzione requirente è sottoposta al controllo diretto o indiretto del potere esecutivo. Molti ordinamenti hanno un'organizzazione gerarchica che consente l'individuazione di figure apicali in grado di indirizzare il funzionamento dell'intera struttura espressiva di quella funzione. Che profilo avrà il procuratore europeo? Come sarà composto il suo ufficio? Avrà le sembianze di un corpo gerarchicamente organizzato, unitariamente rappresentato da un vertice detentore esclusivo della funzione? E come è noto, tra le ipotesi di soluzioni praticabili c'è quella del cosiddetto doppio cappello, che prevede l'esercizio della funzione requirente europea da parte di magistrati italiani del pubblico ministero, che alternerebbero questa veste a seconda dei reati e dei procedimenti con quella ordinaria nazionale. La delicatezza di questa questione, più in generale delle questioni che a mo' di indice ho richiamato, è stata avvertita dagli stessi organi consultivi europei, tanto che il documento finale dell'Assemblea del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei dello scorso maggio ha ribadito la necessità di fare applicazione dei principi e delle regole fissate dalla raccomandazione REC adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che si poneva tutta una serie di domande analoghe a quelle che io ho richiamato. Gli ordinamenti europei risultano peraltro ancora oggi del tutto diversificati, per certi aspetti anche incompatibili, assai più di quanto non accada con riferimento alla figura del giudice. Tuttavia io credo che sia possibile, e certamente l'approfondimento dei vostri lavori lo metterà meglio a fuoco, cogliere un tratto comune, riconoscere al pubblico ministero un ruolo essenziale di organo di giustizia, assimilabile almeno sotto il profilo dell'indipendenza dal potere esecutivo al giudice, a pieno titolo inserito nel circuito giurisdizionale, sulla scorta delle conclusioni della dichiarazione di Bordeaux resa congiuntamente dal Consiglio dei giudici e dei procuratori europei nel 2009. Sotto questo profilo è stato decisivo il ruolo svolto dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che in varie pronunce ha esposto le proprie convinzioni sui presidi di garanzia che devono assistere l'esercizio della funzione dell'organo requirente. Basti qui richiamare la sentenza Lesnik Slovacchia del 2003, quella Nibda alla Polonia del 2000, per giungere alle decisioni più recenti del 2010-2011 riferite al sistema francese relative al grado di indipendenza del PM rispetto all'esecutivo. Un chiaro riferimento alla separazione dei poteri e all'autonomia del PM, da cui occorre partire nella elaborazione di una nozione comune europea di magistrato del pubblico ministero. Un lungo tratto di strada certamente è stato percorso, ora occorre percorrere l'ultimo miglio e, come è noto, qualche volta l'ultimo miglio è quello più impegnativo. Occorre farlo nell'ottica di realizzare uno spazio di democrazia piena, matura, avanzata, che aspiri legittimamente a costituire un modello per il mondo, guardando con un certo orgoglio, io credo, alle nostre tradizioni, ma anche con ragionevole ottimismo a quello che ancora ci separa dalla costruzione del pubblico ministero europeo. Vi ringrazio. Grazie Presidente. Prego il sottosegretario Berretta di prendere la parola, grazie. Sì. Sono particolarmente lieto di intervenire a questa conferenza, sia pure in sostituzione del Ministro Anna Maria Cancellieri, e ringrazio vivamente il Presidente Paciotti, il Presidente della Fondazione Basso, dell'invito e dell'opportunità di dare un saluto a operatori e studiosi di diritto italiani e europei in avvio dei lavori stessi. La protezione dei diritti fondamentali, in linea generale, è un tema assolutamente centrale per il futuro del processo di integrazione europea In questo quadro, il progetto di dotare l'Unione di un procuratore europeo nasce dall'esigenza di assicurare al bene giuridico europeo l'adeguata tutela sul piano penale, garantendo effettività alla tutela del bene stesso e sviluppando la valutazione delle modalità più adatte alla difesa degli interessi finanziari e della prevenzione e repressione delle frodi e di altre attività illecite. L'iniziativa di riflettere e dialogare sulla creazione di un procuratore europeo è senz'altro lodevole anche per l'attualità del tema e direi anzi per la sua tempestività. Una tale innovazione istituzionale e la realizzazione delle condizioni più idonee a garantirne un efficiente funzionamento figura tra i dossier che nell'ambito di un delicato dibattito sulla relativa proposta legislativa vedrà la Presidenza italiana nel secondo semestre 2014 dedicare gli sforzi maggiori e svolgere un ruolo fondamentale di impulso e di ricerca del consenso. Per la verità, il dibattito sulla Procura europea è sul tavolo dei commentatori e degli esperti già da molto tempo, direi almeno dagli anni 90, ed ha, sin dalle prime battute, segnato un obiettivo fondamentale per la creazione dello spazio europeo di giustizia. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 ne ha tracciato, accanto a diverse significative innovazioni, i contorni più specifici d'azione, prevedendo, attraverso l'articolo 86 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che costituisce la base giuridica per la sua istituzione, il diretto riferimento sia all'OLAF che a Eurojust. La definizione dei rapporti tra l'istituendo ufficio del procuratore e le istituzioni dell'Unione, come pure quelli tra gli organismi europei esistenti che svolgono funzioni ricollegabili al settore della giustizia penale, è questione senz'altro complessa. In tale più ampio contesto occorrerà dunque valutare i risultati delle azioni OLAF e di Eurojust, avendo ben presenti i ruoli che questi due organi sono chiamati a giocare in Europa. L'Ufficio europeo per la lotta contro la frode, OLAF, ha nel tempo reso più efficiente la propria funzione investigativa, conseguendo, attraverso la sua concreta attività sul territorio, risultati sempre più significativi. Una traiettoria analoga ha percorso Eurojust, che sin dalle sue costituzioni ha sempre più contribuito, nell'ambito di indagini e azioni penali a carattere trasfrontaliero, a migliorare la cooperazione e l'assistenza giudiziaria tra gli Stati, e che è chiamato dai trattati a sostenere e potenziare il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale. L'attuale frammentazione dello spazio europeo di repressione penale, che a detta di molti osservatori costituisce una delle cause della poco efficiente azione europea di contrasto alla criminalità organizzata, è dunque considerata motivo determinante per dotare l'Unione di una procura europea ed accelerare per questa via l'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri. Nei contatti preliminari che ha avuto in realtà il Ministro, al Consiglio Giustizia della scorsa settimana, il Ministro ha potuto constatare la grande attenzione sul tema da parte di numerose delegazioni e della Commissione. Da parte italiana possiamo certamente assicurare di avere una chiara consapevolezza che il dibattito sul procuratore europeo rappresenta un passaggio fondamentale per far compiere allo spazio europeo di giustizia un autentico salto di qualità. Tuttavia, seppure esiste un consenso di principio sull'obiettivo di creare tale ufficio, le posizioni degli Stati membri divergono quando si passa a esaminare le sue concrete modalità di realizzazione e l'articolazione funzionale del nuovo organismo. Lungi dall'entrare in questa sede nei dettagli organizzativi circa la preferenza per una struttura collegiale o monocratica o circa l'intensità del raccordo con gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri, credo che il negoziato in Consiglio e il confronto col Parlamento europeo debbano considerare alcuni aspetti fondamentali. Tra di essi desidero ad esempio sottolineare l'importanza di evitare costose duplicazioni di attività e lungaggini per gli ordinamenti giudiziari, al fine di assicurare una tutela dei beni e dei diritti realmente vicina al cittadino europeo. In questo quadro, l'istituzione del procuratore europeo dovrà essere accompagnata da un'attenta analisi dei costi e dei benefici, in ordine alla quale proprio l'Olaf ed Eurojust sono chiamati a fornire dati ed elementi conoscitivi utili a svolgere un'adeguata valutazione di impatto. In secondo luogo, dovremmo essere pronti a gestire a valle le implicazioni dell'attività del procuratore europeo, dopo la fase delle indagini, attrezzando di conseguenza le nostre strutture giudicanti, dal punto di vista delle risorse necessarie, non meno che della necessaria mentalità e formazione europea richiesta ai giudici e agli operatori del diritto. Mi avvio a concludere. Tuttavia, la mia introduzione alla conferenza non sarebbe completa se non mettessi in evidenza il rilievo oggettivo che il tema del procuratore europeo riveste per la nostra idea di Europa, come una cartina di tornasole dell'impegno di questo governo in favore di assetti e modelli di governance orientati in senso sovranazionale e federale, nel campo della politica economica e monetaria, in quello della sicurezza e difesa e anche nel settore della giustizia. Si tratta di una convinzione condivisa, più volte espressa dal Presidente Letta e dagli altri membri del Governo, ciascuno per l'ambito di propria competenza, a cui noi ovviamente ci associamo. Credo infatti che anche nel settore giudiziario vi sia bisogno di più Europa. In questo senso, prevedere un ufficio del procuratore europeo a partire da Eurojust, come recita la lettera del trattato, costituisce un'evoluzione coerente del sistema di contrasto alle frodi e di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il quale può già contare su strumenti di coordinamento dell'attività di polizia e di quella investigativa, e richiede di essere completato sotto il profilo giudiziario. Anche per tali motivi, l'occasione di dibattito odierno è dunque preziosa. Desidero pertanto nuovamente ringraziare chi ha contribuito a realizzare l'iniziativa e tutti coloro che hanno voluto partecipare ai lavori assicurando la loro presenza. Siamo tutti consapevoli dell'importanza di misurarci su un tema così delicato, specie in vista della presidenza italiana che lanceremo fra un anno. Mi auguro che in un momento successivo potremo darci appuntamento per trarre un bilancio che non deluga dalle nostre aspettative. Grazie. Grazie al sottosegretario Beretta. Prego ora l'avvocato Guido Alpa, nella sua qualità di presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, di prendere la parola. Grazie. Grazie molte, presidente. Porgo il saluto della Scuola Superiore dell'Avvocatura, che è una fondazione che è stata costituita alcuni anni fa nell'ambito dell'attività del Consiglio Nazionale Forense, che è l'organo rappresentativo degli avvocati italiani. La nuova riforma, la riforma forense, ha affidato al Consiglio non solo l'organizzazione della formazione culturale dei tirocinanti e poi degli avvocati, che sono obbligati ad acquisire nel corso della loro attività crediti formativi, tra i quali ovviamente lo studio dei diritti fondamentali della cooperazione giudiziaria sono elementi essenziali, ma anche la istituzione di un osservatorio della giurisdizione, nell'ambito del quale ovviamente si terrà conto dei diritti fondamentali. Io sono onorato di partecipare, di portare il saluto a questa iniziativa dell'Olaf e della Fondazione Basso, ma anche di salutare coloro che da parte italiana sono stati alcuni dei protagonisti della redazione della Carta di Nizza e poi dell'attuazione della Carta di Nizza nelle diverse esperienze, compresa quella italiana. Per quanto riguarda l'argomento specifico che oggi è in discussione, Io farò pervenire delle osservazioni, delle proposte che sono in corso di esame da parte della commissione specifica del Consiglio Nazionale Forense che si occupa degli aspetti penali. Io sono un civilista e quindi vorrei soltanto segnalare le tre prospettive che oggi al Consiglio Nazionale Forense e alla scuola stiamo esaminando da questo punto di vista, che riguardano però in generale i diritti fondamentali. La prima è questa: l'esame della situazione italiana è particolarmente interessante e forse anche un poco curiosa, perché quando si parla dei diritti fondamentali si tiene conto sia della formante legislativa, sia della formante giurisprudenziale, sia della formante dottrinale. E allora, dal punto di vista della formante legislativa, l'iniziativa di oggi si inserisce nel quadro dello sviluppo e dell'evoluzione del diritto comunitario, dei riflessi del diritto comunitario sul diritto interno e delle iniziative legislative del diritto interno. Dal nostro punto di vista, particolarmente felice è stata non soltanto, come sapete, la redazione della Carta Costituzionale del 1948, che è uno dei modelli delle carte costituzionali scritte d'Europa, ma anche è stata essenziale la formante giurisprudenziale, cioè la creazione giurisprudenziale dei diritti fondamentali. Circostanza che forse stupirà per il fatto che lo sottolineo ai nostri colleghi inglesi che provengono da un'esperienza nella quale la case law è così importante, ma da noi è un fatto eccezionale e il diritto alla privacy, per noi particolarmente rilevante, è una creazione della Corte di Cassazione, che negli anni 60 ha individuato, applicando l'articolo 2 della nostra Costituzione, un nuovo diritto fondamentale. Così come negli anni 80 un diritto che in altri ordinamenti non è particolarmente rilevato, ma è invece evidenziato nella Carta dei diritti fondamentali, e cioè il diritto alla identità personale, inteso non come identità fisica, ma il diritto ad essere rappresentati nel proprio patrimonio ideale. Poi c'è la formante dottrinale o accademica, che anche in questo settore dei diritti fondamentali e diritti della persona è particolarmente rilevante. Questo è il primo profilo. Il secondo profilo è il problema della effettività. Un conto sono i diritti scritti sulla carta, un conto sono i diritti applicati in via giurisprudenziale, altro conto è la vita quotidiana. Purtroppo nel nostro paese e in altri nei quali gli effetti della crisi economica sono particolarmente avvertiti, si registra un regresso dei diritti fondamentali. Questo significa che, come molti studiosi hanno messo in luce, i diritti fondamentali non sono una conquista definitiva, ma sono una conquista che ogni giorno deve essere riaffermata. E pertanto sono molto importanti queste iniziative prese in sede comunitaria, dall'Olaf, da Eurojust e dalla Fondazione Basso, da tutte le componenti che collaborano per attuare forme di giustizia che rendano concreti i diritti fondamentali, ma ecco, dobbiamo tenere conto anche che probabilmente la crisi economica richiederà un ulteriore impegno, perché la registrazione di fatti che tendono a penalizzare coloro che appartengono alle categorie deboli, la riemersione di diseguaglianze e di forme di discriminazione in questo momento ci preoccupano molto, e quindi di qui l'attenzione anche dell'avvocatura per questi fenomeni. Grazie molto. Un vivo ringraziamento all'avvocato Alba. E come molti di voi sanno, il professor Valerio Nida, che è il presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, è stato appena chiamato a far parte del gruppo dei saggi che devono studiare le riforme costituzionali. La riunione è in corso e non è potuto essere presente, però abbiamo un validissimo sostituto, perché il dottor Raffaele Sabato è il responsabile per la Scuola Superiore dell'Avvocatura della formazione inter... Chiedo scusa. Mi sono spostata dal mio ruolo tradizionale, un lapsus grave. Molto apprezzato, grazie. Della Scuola Superiore dell'Avvocatura, mi pare per la formazione proprio sul diritto internazionale da parte dei magistrati. Grazie, prego, dottor Sabato. Grazie. Grazie Presidente Paciotti. Pochissime parole per portare il saluto del Presidente Onida, impossibilitato per le ragioni istituzionali appena menzionate a essere presente. Il Presidente Onida e il Comitato Direttivo della Scuola annettono molta importanza alla formazione soprattutto dei magistrati a queste tematiche affrontate a un livello così elevato nella vostra conferenza internazionale. Per quanto possa occorrere a livello di testimonianza, può essere utile informare che sin dall'inizio dell'operatività di questo nuovo ente pubblico, che eredita una importante tradizione formativa finora in capo al Consiglio Superiore della Magistratura, ha posto attenzione alle tematiche della cooperazione giudiziaria europea, anche su specifiche direttive ricevute in argomento dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura. La scuola ha operato a far tempo dallo scorso 15 ottobre nel settore della formazione dei giovani magistrati in tirocinio e dallo scorso 1 gennaio nel settore della formazione permanente dei magistrati in servizio. In questi pochi mesi sono state realizzate numerose iniziative afferenti i temi che voi oggi così autorevolmente tratterete. Può essere utile menzionare, ad esempio, che proprio oggi comincia presso la nostra sede di Villa Castelpulci a Scandicci un importante incontro di studi con la partecipazione anche di magistrati, giudicanti e del pubblico ministero di altri paesi europei, intitolato proprio Spazio Europeo di Giustizia. Qualche settimana fa, con la partecipazione anche dei vertici della magistratura presenti in aula, si è tenuto un incontro sullo Statuto Europeo del magistrato, con la partecipazione di esponenti del Consiglio d'Europa e degli organi consultivi dello stesso. Nel periodo tra marzo ed aprile si sono tenute sessioni formative dei giovani magistrati in tirocinio, specificamente dedicate non già a semplici trattazioni teoriche delle tematiche in questione, ma a concreti casi relativi ai diritti fondamentali, spesso riferiti al nostro ordinamento, alla redazione di ordinanze di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte, alla compilazione di mandati di arresto europeo, sino a giungere poi alla visione che di questi atti, in teoria e per esercitazione, avrebbero potuto avere la Corte di Giustizia, l'autorità del paese destinatario del mandato d'arresto e così via. In questa medesima ottica, la Scuola Superiore della Magistratura, a titolo, in base all'articolo 2 del suo decreto istitutivo, a collaborare con istituzioni sia pubbliche che private su specifici programmi. E quindi con piacere, anche a nome del Presidente Onida, che esprimiamo apprezzamento per la Fondazione Basso, oltre che ovviamente per tutte le istituzioni europee qui presenti, per questa iniziativa e per future collaborazioni cui la scuola può effettivamente dare un contributo, se non altro facendo da tramite per raggiungere i numerosi ed interessati magistrati italiani. In questa medesima ottica, la Presidente Paciotti, posso forse qui annunciarlo, il giorno 27 parlerà a una metà dei nuovi magistrati ordinari in tirocinio che hanno avviato da qualche giorno la loro esperienza giudiziaria. Sono stati ricevuti ieri al Quirinale. Il giorno 27 sentiranno dalla Presidente Paciotti e dal giudice costituzionale Criscuolo una esposizione relativa alla storia della magistratura, che è una storia soprattutto di diritti fondamentali e di cooperazione. Grazie. Grazie, dottor Sabato. Facciamo una breve pausa caffè e poi alle 4:25 riprendiamo, interverranno a questo punto i rappresentanti delle istituzioni europee, del Parlamento europeo, del Consiglio, e abbiamo un video nel quale la vicepresidente della Commissione europea, Viviane Reding, espone il suo punto di vista. Grazie, a tra poco. Presidente, grazie. I guess it's the same message that you gave in the last conference. To no surprise. Se volete accomodarvi, se volete accomodarvi, per evitare di interrompere il dialogo fra i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio, che poi parleranno, mandiamo innanzitutto la registrazione della videoconferenza di Viviane Reding, che è la responsabile del settore, diciamo, giustizia e diritti della Commissione e della vicepresidente della Commissione. Ascoltiamo prima lei e poi segue il interessante dibattito con i rappresentanti delle altre istituzioni europee. Prego. Ladies and gentlemen. But cannot bring a case before the court. In short, the current system relies on an adequate national response. And this often requires overcoming barriers presented by institutional rigidity and divergent national legal considerations. There is a clear enforcement gap that must be filled by the European Public Prosecutor's Office. The future prosecutor's office will conduct investigations and prosecutions in a decentralized manner, yet with central steering and coordination. This will allow the prosecutor's office to integrate smoothly into national justice systems, respecting their differences and traditions, as well as relying on their expertise and resources. The European prosecutor should have exclusive competence to investigate EU fraud. This will avoid conflicts of jurisdiction between member states, as well as any duplication of efforts. The European prosecutor should also address the fragmentation of prosecution efforts due to the national character of justice systems. The laws stop at borders, but crime does not. National prosecution services can only act within their national jurisdiction. This limits their ability to tackle cross-border crimes. This, in turn, hampers the possibilities of investigation and prosecuting the sophisticated white-collar crime often associated with crimes against the EU budget. For the European prosecutor of the European Union, it should be its single area for action. This should allow investigation and prosecution to cross member states' borders and to respond adequately to the challenges of crime affecting the Union's financial interests. Borders should no longer be barriers to pursuing criminals attacking the EU budget. The European prosecutor will also provide for better coherence throughout proceedings. it should demonstrate its added value by steering the process from the opening of the investigation until the trial, ensure continuity, and foster a genuine European prosecution culture throughout the European Union. The Union and its member states have a duty to address fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union. This is especially true in times of economic hardship and of limited and fiscally responsible budget. Despite this obligation to act, which is imposed by the treaties, the Union's financial interests remain insufficiently protected. Fraud, corruption, and other offences affecting the budget reach disturbing levels. As lawmakers, we cannot stand idle, failing to take the most appropriate action. The Treaty of Lisbon gave us new and powerful tools that are meant to make a difference. We must now make use of them, reinforcing the arsenal of measures to investigate and prosecute crime against the financial interests of the Union. The European prosecutor will also strengthen the legal safeguards that protect individuals affected by investigations or prosecutions in the Union. I want the proposal establishing the European prosecutor to include a series of EU-level procedural safeguards. This should include access to a lawyer, the right to be presumed innocent, and the right to legal aid. The proposal should also stipulate that investigations are subject to judicial review. This will also make it clear that certain investigative measures require judicial authorization. In addition, it will provide for a comprehensive system of personal data protection. Taken together, these safeguards will provide a higher level of legal security in the Union's efforts to combat European fraud and enable a system of investigations and prosecutions based on the rule of law. These are the main elements of the future Commission proposal. I count on your help to make this project possible very soon. I wish you every success with your discussions today and look forward to reading your contributions. Thank you. Bene, dopo questo preliminare, adesso la parola passa al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione. La parola è a Luigi Berlinguer, che fa parte della Commissione giuridica del Parlamento europeo. Prego. Grazie Presidente, grazie alla Fondazione Basso per l'invito ad intervenire in un convegno così utile e prestigioso, che è un'occasione per poter trattare di come lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia si sia venuto strutturando in questi anni a partire dalla prima concezione del programma di Stoccolma nel 2009. Ritengo sia di fondamentale importanza, tuttavia, e mi permetterò di dare questo taglio al mio intervento, discutere sia dell'aspetto del procuratore europeo, sia dello spazio europeo, con uno sguardo complessivo, politico e giuridico, quindi di natura penalistica e civilistica, lato sensu. Cercherò di spiegare perché. La priorità, infatti, è creare davvero, fin dalle fondamenta, un contesto comune che tenga insieme le tante esigenze sociali e giuridiche che in questi ultimi anni hanno avvicinato le legislazioni nazionali e con riforme importanti di estrema rilevanza per la vita dei cittadini. E mi vorrei permettere di elencare solo alcuni esempi. Innanzitutto la tutela di alcuni diritti fondamentali venuti in luce in forma più rilevante proprio in ambito europeo. E poi temi vari, dal diritto delle successioni alla materia dei contratti, dal brevetto fino agli appalti, dal diritto societario ed industriale alla lavoristica, il tema della mediazione del ADR, con molto impegno il tema del diritto d'autore, l'ordine della di protezione europeo, la questione di proprietà matrimoniale, il divorzio, la revisione di Brussels 1 e così via. Ci troviamo cioè di fronte a un ricco elenco di iniziative che vanno sostanziando o potrebbero sostanziare in concreto uno spazio europeo di giustizia. Oggi però, oltre alla civilistica, noi trattiamo di un aspetto assai rilevante, non facilmente prevedibile nell'Unione Europea prima di Lisbona, almeno con questo rilievo: l'apertura della prospettiva penalistica e, oltre naturalmente, allo spazio di Stoccolma. Lisbona non ce lo dobbiamo dimenticare, perché l'Europa è un processo nella sua costruzione. Lisbona ha offerto la base giuridica per uno sviluppo di politiche normative di supporto agli indirizzi generali di questa società. Nel passato la politica criminale aveva come riferimento il terzo pilastro e le misure erano in prevalenza decisioni quadro. E non c'era tutela giurisdizionale in questo campo, se non bassissima. E il Parlamento aveva un peso molto limitato in quei procedimenti. Come è stato anche qua leggermente ricordato, la grave crisi economica e finanziaria ha accentuato questo in una luce nuova. Il primo problema dell'Europa è la crescita. Essa non è realizzabile con un debole sistema di giustizia, frammentato nei singoli Stati. Occasione di frammentazione dell'Europa stessa, ostacolo all'integrazione. Non c'è crescita senza lo sviluppo dell'economia sociale. Lasciatemi fare questo esempio. Per questo stiamo tentando di rilanciare la solidarietà giuridicamente attraverso la mutualità, una ripresa della mutualità che per esempio nel nostro paese è stata messa in un cantuccio, la cooperazione e di definire uno statuto europeo delle mutue che in altri paesi invece sono più forti. Non c'è crescita senza pieno sviluppo del mercato interno e qui si collocano tutte le misure commercialistiche e di company law, ma anche di tutela lavoristica, che stanno a indicare le condizioni materiali del mercato interno e non solo economiche. Non c'è crescita senza una disciplina penalistica che assicuri l'efficienza della giustizia nel contrasto alla criminalità. In questo momento questo è un dato quasi nuovo culturalmente parlando: giustizia e crescita. Una consapevolezza appunto nuova. In essa si inquadrano gli interessanti risultati di Eurojust, per fare un esempio, e anche ovviamente il fatto di una ripresa delle prospettive dell'ufficio del procuratore europeo che, ricordate, fu accolto con scetticismo all'inizio, mentre assistiamo da ultimo a una ripresa di interessi e ad una maggiore frequenza della tematica fino a iniziative concrete come la comunicazione della Commissione e l'annunciato provvedimento in presentazione. I proponimenti della Commissione sono più netti oggi su questo argomento, soprattutto mossi da un collegamento con l'urgenza della materia finanziaria, e purtroppo questo ci ha aiutato, e il bisogno di combatterne gli abusi. Io ho sentito qualche nota di ottimismo in alcuni degli interventi di questa mattina a proposito della Procura europea. Ritengo il cammino molto, molto complicato. E tuttavia non c'è dubbio che spingano in favore anche le risultanze di Eurobarometro, e cioè delle rilevazioni sul sentire pubblico, il grande bisogno di sicurezza che oggi anima le coscienze in tutta Europa e particolarmente in questo Paese, sia individuale, sia nel complesso mondo degli affari, sia nell'attività imprenditoriale. È una spinta oggettiva a favore di un passo avanti, di un sistema di giustizia non frammentato. In altri termini, emerge con più forza il bisogno di dare soluzioni alle necessità di tutelare l'attività economica rispetto alle varie forme di criminalità, in generale negli Stati membri, ma anche a livello europeo. Tra l'altro, c'è da dirlo, per motivo che è nelle pieghe transfrontaliere, come nelle differenze di efficienza e persino di praticità di sistemi penali fra Stato e Stato che allineano condizioni di favore, o meglio di scarsa combattività rispetto al crimine. E la stessa mancanza di giudiziabilità penale a livello europeo ha nel passato contribuito a queste incertezze. Anche per questo l'ipotesi dell'ufficio di procuratore europeo tende a definirsi maggiormente per quel che riguarda la struttura, e questo è un passo avanti, quella delegata, le attività, le competenze, le norme processuali, comunque l'idea dell'investigazione diretta, più volte richiamata oggi anche. Vorrei aggiungere una considerazione apparentemente ellittica al tema di oggi. Di recente in Parlamento abbiamo approvato due risoluzioni sulla necessità e l'utilità di definire normativamente la normativa del procedimento amministrativo per le strutture dell'Unione. Non basta una crescita penalistica in questo campo. Ci sono anche i diritti dei cittadini che adiscono l'Unione per una serie di attività che ormai l'Unione fa e svolge in prima persona. Finora siamo rimasti soli in Parlamento, nonostante il Trattato di Lisbona. Ho piacere che sia presente qua l'amico Nilsson. Il Consiglio in passato ha ignorato questa materia, ora sembra di no. La Commissione, che noi abbiamo costretto in Parlamento con una solenne risoluzione parlamentare a questo proposito, ha reagito con squisita cortesia e sostanziale freddezza. Pare che le direzioni generali non siano entusiaste nella definizione di un procedimento amministrativo. Noi in Parlamento intendiamo continuare la nostra pressione anche su questo fronte. E, ora, da questi piccoli accenni che ho fatto, nel complesso emergono nuovi bisogni squisitamente a dimensione europea, che nascono dalla crescita esponenziale della dimensione transfrontaliera nel quadro economico-sociale degli Stati membri e come effetto naturale del crescente peso e della sempre maggiore integrazione dell'economia europea, nonché dalla necessità e condizione stessa di crescita e coesione dell'Unione. In quest'ottica, quindi, il programma di Stoccolma non è soltanto un'aspirazione ideale, ma è anche un processo strutturato e indispensabile per ognuna delle riforme europee in materia di cittadinanza, di diritto privato internazionale, di cooperazione civile e penale, di amministrazione. Ma qui emerge un altro e attualissimo aspetto su cui voglio richiamare la vostra attenzione: la necessità di normative che abbiano sempre cura di valutare gli effetti reali della loro realizzazione. Cruciale. Nessun piano di riforma, nemmeno il più ambizioso, potrà mai avere risultati di lungo periodo ed una presa sociale sulla società europea, una presa reale, senza valutare e promuovere e quindi capire qual è il numero dei cittadini che si avvantaggiano realmente delle norme prodotte. Oggi, lo dico con un margine di autocritica, viviamo il difetto di parlamenti nazionali ed europei impegnati unilateralmente a legiferare e quasi esclusivamente a legiferare, sostanzialmente disinteressati in pratica, anche se non a parole, rispetto all'efficacia e alla attuazione delle norme prodotte ex post. Nell'Unione abbiamo ormai prodotto e costruito un imponente corpus iuris, ma la percentuale di cittadini coinvolti, dati scientifici non ne abbiamo ma indicativi sì, pare sia inferiore al 5% dei cittadini dell'Unione che si avvantaggiano da questi risultati. Non una valutazione di impatto preventivo quindi soltanto, bensì un vero controllo degli effetti reali, valutazione per la quale sia Parlamento che Commissione in Europa, bisogna dirlo, non hanno ancora la capacità sufficiente. La Commissione ha promosso ora il Justice Scoreboard, sempre in questo quadro, interessante idea, però è ancora tutta da costruire. Ed emerge qui un'altra nuova priorità su cui lavorare fin da subito, nella fase di revisione mid-term del programma di Stoccolma e nel momento di definire già da ora il futuro quadro normativo pluriennale del programma stesso. Per tutto questo è fondamentale introdurre un profondo cambiamento nella mentalità, una profonda evoluzione della mentalità giuridica europea, da fondare in primo luogo sul pilastro della fiducia reciproca tra i diversi ordinamenti. Su questo tema il Parlamento europeo, in particolare la Commissione Affari Giuridici, si è caratterizzato in questa legislatura per una modifica fondamentale di approccio a partire da alcuni progetti pilota e iniziative politiche, tutte mirate a creare concretamente nuovi modelli di evoluzione e di elaborazione della mentalità giuridica dominante e di sviluppo professionale degli operatori giuridici. Stoccolma e Lisbona, infatti, hanno impresso una svolta molto importante alle competenze e alle politiche della cosiddetta formazione e cooperazione giudiziaria in Europa. Essi rafforzano la necessità della costruzione di una vera e genuina cultura giuridica comune europea, non un sentimento comune. I magistrati hanno sentimenti uguali in tutta Europa, ma la loro cultura giuridica spesso ha provenienze diverse. E quindi la costruzione di una cultura giuridica comune è la condizione assoluta perché l'area europea e quindi anche le iniziative specifiche in tema europeo possano marciare più concretamente. Una cultura giuridica europea che rispetti e che rispetti in primo luogo i principi di sussidiarietà e soprattutto di indipendenza giudiziaria in tutti gli Stati, non dimentichiamo che ce ne sono di diversi, e sostenga la reciproca fiducia ed il mutuo riconoscimento. Per assicurare un pieno contributo delle autorità giudiziarie nazionali alla realizzazione di un tale obiettivo, la prima condizione è che essi abbiano una profonda conoscenza degli strumenti giuridici comunitari, una conoscenza, lasciatemelo dire, sufficiente delle lingue straniere. Sembra un problema secondario, sembra che interessi i portieri d'albergo la questione della lingua. Interessa oggi le alte professioni in Europa e in particolare della terminologia tecnica, e che possono condividere una comune mentalità a partire dalla conoscenza e comprensione mutua dei sistemi e delle tradizioni giuridiche. Una formazione, tra virgolette, giudiziaria diviene quindi un esempio di quel nuovo approccio citato all'inizio del mio intervento. L'idea che la sottende è che il Parlamento europeo ha tentato di promuovere in questi anni e di avanzare un approccio bottom-up della costruzione dello sviluppo professionale dei magistrati, che includa gli Stati membri, le associazioni nazionali delle professioni giuridiche, tutte con una forte partecipazione anche delle università. In questo quadro, come modello per sviluppare azioni ulteriori a livello comunitario, hanno rivestito una certa importanza le esperienze di alcuni Stati membri, a mio avviso quella più avanzata è quella olandese con Eurinfra, che sono state di grande ispirazione nella definizione del progetto pilota che alcuni di noi hanno presentato a nome della Commissione Iure 2 anni fa. Il programma di Stoccolma è stato adottato nel 2010 ed era finalizzato a stabilire una serie di obiettivi da conseguire nel 2014. La Commissione europea ha poi presentato un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma proprio il 20 aprile del 2010. Ora che il programma di Stoccolma ha superato oltre la metà della propria durata, la Commissione giuridica, la Commissione libertà civili, giustizia e affari interni e la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo hanno intrapreso iniziative che mirano proprio a valutare i progressi sinora compiuti, i difetti che tutto ciò ha avuto, al fine di identificare i passi ancora da attuare, anche come possibili priorità del programma successivo. Abbiamo un po' faticato a convincere, speriamo di essere riusciti, la Commissione, perché per realizzare questo aspetto vorrei attirare la vostra attenzione appunto sull'interrogazione orale che abbiamo presentato congiuntamente lo scorso mese di maggio dalle 3 commissioni menzionate, nell'intento di focalizzare l'attenzione sul problema dell'applicazione concreta della normativa europea. Come ho già detto, solo una piccola parte delle copiose norme prodotte a livello europeo, ci interroghiamo, così, sono infatti recepite ed applicate, una piccola parte. Questo certamente vanifica molti dei nostri sforzi e soprattutto non permette ai cittadini di godere pienamente la cittadinanza europea nel suo complesso. Costruiamo una Ferrari e camminiamo alla velocità di una 500. Il problema dell'applicazione effettiva delle norme ha una rilevanza pratica molto grande ed è pertanto fondamentale. Lo è anche per le autorità nazionali e per i rappresentanti delle professioni giuridiche qui oggi presenti, e lo sarà ancor più nel caso del procuratore europeo. E la richiesta è che ci vengano forniti tutti i dati di cui attualmente le istituzioni a partire dalla Commissione dispongono per poter avere un quadro esaustivo per quanto concerne lo spazio di sicurezza, libertà e giustizia concretamente inteso. Grazie. Grazie a Luigi Berlinguer per questo ampio quadro che ci ha fatto delle questioni proprio della costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Adesso la parola è a Jens Geier, che invece è membro di quella commissione controllo bilancio che ha molto a che fare con la difesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Prego, Jens. Thank you very much. I will have to speak English because my command in Italian is not good enough to address you in your wonderful mother tongue. Ladies and gentlemen, I'm honored to be able to speak to you here today at this important conference. I would like to thank the speakers for their valuable contributions, and I'm very grateful to Ms. Elena Pacciotti and the Fondazione Basso for organizing this conference and welcoming us here in Rome. I'm happy to give you my perspective, both as a coordinator in the Budgetary Control Committee in the European Parliament and as a politician who studied history, who has already seen the protection of fundamental rights in Europe evolve hugely towards developments such as inclusion of legitimate individual rights in the 1999 regulation on investigations carried out by the EU's anti-fraud office OLAF, and most significantly, of course, entry into force of the Lisbon Treaty of the EU Charter of Fundamental Rights. However, it is clear that many more challenges lie ahead, and one of the most important will be the establishment of the European Public Prosecutor's Office. And all of this needs to be done in the context of a wide variety of judicial traditions to be found in different parts of the EU. So firstly, my committee and its responsibilities. Since 2009, while I have been on the Budgetary Control Committee, it has dealt with many issues linked to control of EU budget, implementation and the fight against fraud. In this respect, our core business is the protection of the EU's financial interests. And that means the protection of financial interests of all taxpayers within the European Union. This central principle will guide me through my speech today. To do this work, the Budgetary Control Committee and the Parliament as a whole have to work closely with the European Court of Auditors. Its suggestions are a key element of sound financial management in the European Union. Furthermore, the committee must also maintain close contact to OLAF. Coming back briefly to the relation between the Budgetary Control Committee and OLAF, when the office was established in 1999, it replaced the previous anti-fraud unit within the Commission. The creation of a separate entity was a big step forward, as the Director General now had the power to open internal investigations and checks in the Member States on his own initiative. As you know, the office missions is threefold. Firstly, protecting the EU's financial interest. Secondly, detecting and investigating wrongdoings by members and staff of the EU institutions. And thirdly, supporting anti-fraud legislation and policies. In its work, OLAF needs a strong, clear legal framework to ensure its investigations are effective and efficient, and most important, independent. For this reason, my committee repeatedly asked for OLAF's investigative capacities to be strengthened. The latest developments can be seen in OLAF's 2012 annual report. By shortening the average duration of cases by several months and increasing the number of cases being processed at the same time, the office shows its strong commitment to fighting corruption and fraud in Europe. All of us, as European citizens, have an interest in a strong and independent anti-fraud office able to focus on its core business. Therefore, the link between Olaf and my committee should be strengthened on all levels. Now I would like to turn in more detail to the protection of the EU's financial interests. In Brussels, we use the acronym PIF from the French Protection des Intérêts Financiers. The annual PIF report predates other types of scrutiny of the budget and has to be carried out under Article 325 of the Treaty, requiring the Commission in cooperation with Member States to submit a report to Council and Parliament on measures to combat fraud. So we see that protection of the EU's financial interest and the fight against fraud encompass the core business of both Olaf and my committee. We produce the annual parliamentary report on PIF, showing the latest developments, deficiencies and potentials in this field, and in it we aim to show to what extent EU funds or revenues are at risk of mismanagement and misuse. This refers to both irregularities as well as instances of fraud. I must emphasize that irregularities do not necessarily mean fraud. Irregularities are acts which do not comply with EU rules and which might have a negative impact on the financial interests of the EU. In day-to-day work in my constituency in Germany, I often come across cases where small mistakes in implementation and execution of EU funds can add up to a significant overall error rate. Often these irregularities were due to lack of training or care rather than fraudulent behavior, and so may be the result of genuine errors on the part of beneficiaries claiming funds of the authorities responsible for making payments. Only if errors are made with intent, it is fraud. It is important to see how the picture develops when it comes to irregularities and fraud in the EU. As I just mentioned, the so-called PIF report gives a comprehensive overview of the development in this field in recent years. The main focus of this year's PIF report is the Union's major spending areas, such as cohesion policy and agriculture, and it also examines the revenue side. And here we come to one of the very serious concerns that I've been highlighting for quite some time. When it comes to the Union's own resources, the EU needs to go onto a better and more stable footing. Issues like cigarette smuggling, customs fraud or VAT fraud, including missing trader intercommunity fraud, better known as carousel fraud, pose a real risk to the EU's financial foundations. I was rapporteur for the 2011 Commission discharge report, voted in plenary 2 months ago. The report calls on the Commission to collect reliable data on the customs and VAT gaps in Member States and to report regularly to the Parliament. We insist also that tax evasion and avoidance schemes are intended and appropriate countermeasures put in place. Furthermore, VAT and customs duty collection must be made more effective and efficient in Member States. These examples show the strong interrelation between Member States and the EU when it comes to the protection of financial interests. You can basically say if national programs and measures don't work properly, it affects not just the Member States' budget, but also the resources available to the entire European Union. So fighting cigarette smuggling, VAT or customs fraud must indeed to be addressed at a European level. Olaf in particular plays a crucial role here. EU finance programs such as Hercule promote activities to protect financial interests. For the period 2007 to 2013, the Hercule II program provides funding at almost 100 million euro for action to combat fraud, including cigarette smuggling and counterfeiting. National or regional administrations, research and education facilities, as well as non-profit bodies can receive the funding. However, community finance programs like this are designed to complement and not to replace national efforts, and I would add to help address weaknesses in national programs designed to fight fraud, trafficking, smuggling and counterfeiting. Member States nevertheless hold primary responsibility and the obligation to allocate sufficient resources, skills and staff to implement appropriate measures on the ground. EU programs like Hercule can only contribute with technical support, training or seminars and conferences such as this one. The Commission has launched more initiatives such as its anti-fraud strategy, including an action plan to fight smuggling along the EU's eastern border. But as I said, these are simply measures to complement national efforts and not to replace them. OLAF is an indispensable player in the Union's goal work to tackle the problems I have just mentioned. Here, I would emphasize that OLAF's independence is of utmost importance to me and the committee. As our main weapon in the fight against fraud, OLAF's independence is a foundation to effective investigations. My committee's role is not to control the Anti-Fraud Office, but to guarantee its best functioning and optimize its where necessary. Speaking of OLAF's responsibilities, I would like to give you a brief overview of the reform of the OLAF regulation and the OLAF Supervisory Committee. The current text of the new OLAF regulation is the result of more than 6 years of discussions between the Parliament, Council and Commission, with a trilogue which took around a year to conclude. So you see how much work and time has gone into the reform. Most importantly, especially in view of current discussions about protection of fundamental rights, the new regulation text covers the issue of human rights and fundamental freedoms more extensively than the one currently in force. The new text imposes more detailed and specific obligations on OLAF and its Director General compared with the current statement that investigations must be conducted with full respect for human rights and fundamental freedoms. This is a clear step forward. The same is true for the provisions dealing with OLAF investigations. Whereas the current regulation gives only a broad overview on the opening of investigations in Article 5, for instance, the new one complements this with a range of improvements and innovations. Furthermore, Article 10 mentioned that Member States need to, I quote, inform the Office in due time on their own initiative or on request by the Office of the action taken on the basis of the information transmitted to them under this article. This basically allows for a much better follow-up of OLAF investigations in the Member States and increases transparency. And these are only a few examples of the improvements that can be achieved with the OLAF reform. I'm sure no one will deny the improvements hard won in the lengthy trilogue negotiations. Even though it is a separate issue, let me briefly refer in this context to what is called Dullygate in the media. The rapporteur for the OLAF dossier has threatened to open the entire package of the negotiated OLAF text because of Dullygate, with the aim of strengthening the OLAF Supervisory Committee and limiting the powers of the OLAF Director General. However, both the Council and the Commission have repeated that amending the regulation now is not an option. This was repeated in one of our recent committee meetings. The Commission has even signed a declaration in response to my initiative calling for an early evaluation of the new regulation. This has two advantages. On the one hand, we keep the improvements gained and agreed by all parties in trilogue negotiations, and on the other, we will have the opportunity to amend or optimize provisions, taking into account conclusions from recent cases when they are available, without jeopardizing what we have already achieved. To my mind, anything else is neither in the interest of the committee nor of OLAF or the EU's capacity to fight fraud. However, this position is contested in the committee and will be decided in the next plenary session of the European Parliament in July. Speaking of the OLAF regulation means also considering the role of the OLAF Supervisory Committee. I declared several times in committee and in public that it is essential to have proper and effective supervision of OLAF. While OLAF is our most important weapon to fight fraud and other crimes against the EU's financial interests, the Supervisory Committee is the Parliament's guarantee that OLAF works within the boundaries of law and fundamental rights. OLAF and its Supervisory Committee must find a modus operandi. Their working relationship needs to enable efficient and effective work to be carried out. They must reach mutual agreement on their procedures. The new regulation strengthens the oversight powers and enhances the Supervisory Committee's competences. For instance, it specifically includes the provision that the committee shall participate in the annual exchange of views between OLAF and EU institutions. This contributes significantly to more transparency and a better understanding of processes, which is essential for the Supervisory Committee's work. Now, looking ahead from OLAF to EPO. The Budgetary Control Committee focuses on the Commission's proposal on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law. This dossier is shared responsibility between the Budget Control Committee and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. The two committees will draw up a single report and will vote on it together at a later stage. An opinion will be given by the Legal Affairs Committee. Two joint committee meetings have already taken place between Budget Control and Civil Liberties, mainly discussing the legal base of the dossier. Unlike the Legal Affairs Committee, the Budget Control Committee supports the Commission in its initial plan to use Article 325 of the Treaty as a legal base. The main reason for this is that Article 325 is the one under which the current PIF work is carried out. Furthermore, it is subject to the ordinary legislative procedure, allowing for an effective and equivalent protection in the Member States and in all EU's institutions and bodies. However, the Council showed disagreement with this interpretation. As a consequence, it indicated Article 83, paragraph 2 of the treaty as an appropriate legal base to allow approximation of national criminal law through minimum rules with regard to definition of criminal offences and sanctions to ensure effective implementation of a union policy. Using this article instead of Article 325 means that three countries, Denmark, Ireland and the United Kingdom, can opt out, which I am convinced weakens the entire dossier. Being the committee under whose responsibility the decision of the legal base of a dossier falls, the Legal Affairs Committee decided, however, to follow the Council's approach rather than that of the Commission. This report on the fight against fraud against the Union's financial interests by means of criminal law can be considered a starting point for possible establishment of a European Public Prosecutor's Office. It would be the first European office of this kind. It was only yesterday that the European Parliament voted in Strasbourg on the midterm report written by the Special Committee on Organized Crime, Corruption and Money Laundering. This report clearly calls for the European Public Prosecutor's Office to be established as provided for in Article 86 of the Treaty. It moreover recommends that, I quote, the future office should have an efficient and streamlined structure and should be given the task of coordinating and encouraging national authorities so as to make investigations more coherent through uniform procedural rules. The Commission should present a proposal before September 2013, clearly defining not only the structure of the EPO, but only its accountability to the European Parliament and, in particular, its interaction with Europol, Eurojust, OLAF and the Fundamental Rights Agency. As you can see, the European Parliament is keen to see the Commission's proposal published. I'm certainly not going to try and predict the future in terms of the European Public Prosecutor and the relationship with OLAF or other bodies. However, looking back, we can see that we have achieved already what we have achieved already with the Budgetary Control Committee. I'm convinced that we need a strong setup for the European Public Prosecutor's Office. As history has shown, it will not be easy to find common ground between the two legislators. However, it is not impossible. And it is now that we have to lay the foundations for this. Thank you for your attention. very much. Yanis, for your intervention. Abbiamo cominciato a capire la complessità della costruzione di una repressione efficace dei reati contro gli interessi economici e finanziari dell'Unione. Adesso la parola è a Hans Nilsson, che ci dirà la posizione del Consiglio dell'Unione Europea. Prego, Hans. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. It's a pleasure to be here again. I'm going to have a very brief PowerPoint that I will show to you if someone will put it on. It's no problem, I will speak also without the PowerPoint. It's a great pleasure for me. Okay, I have switched. Yeah, but it has to be shown as well. Okay, that's fine. Okay, thank you. So it's a pleasure for me to be here in Italy, and I would like to do something a little bit unusual, because I would like to pay tribute to an Italian person who has been extremely, shall we say, decisive for the project on the setting up of the European Public Prosecutor's Office. And that is my friend Francesco De Angelis, who used to be a director in the European Commission, and he was working on budget control issues. Francesco was the one who set up a group of academics and asked them to try to do something to the fact that the prosecutions of the offences against financial interests of the community at that time were not carried out properly in the member states. And these academics were made a project for him, but Francesco was not happy with that project. He said, "I don't want to have anything which is based on old judicial cooperation methods and old methods in the member states. I need something more that has power. I need something that can actually work, because the member states, they work so differently, they are slow, they are inefficient, they don't understand the protection of the financial interests of the Union. They don't understand all the procedures that are in the European community." So Francesco, he set up, among other things, an association for the criminal law protection of financial interest of the Union, basically in all member states of the Union, and he sponsored them, and we had, I don't know how many hundreds of seminars that we had over the time. I have been traveling a lot, I can say, in the European Union, thanks to Francesco. And now I'm traveling also to Rome. That is a pleasure, of course. Why would we have to have the European Public Prosecutor's Office? Isn't it enough to have the regular work of the national judicial authorities? Isn't it enough to have Eurojust? I have to admit that I have been skeptical for quite some time on the idea of setting up the European Public Prosecutor's Office, because I had thought that we could probably deal with most of these cases at national level and perhaps through Eurojust. But I have also to admit that I have changed my mind since a couple of years ago, when I started to see statistics on how OLAF cases were dealt with by national authorities. I can give you some statistics from the OLAF report 2011, where OLAF has analyzed all the more than 1,000 cases that they have handed over to national judicial authorities. And an analysis of these judicial actions taken by the member states following OLAF investigations in the period 2006 to 2011 indicates that the number of cases in which no judicial decision has yet been taken is relatively high, 54%. 54% of the cases, all the cases that OLAF handed over to national judicial authorities in a period of 5 years, did not result in any decision taken. And in that report, I'm quoting, it's on page 21 of the report if you want to read it, more than half of the 471 actions considered by the judicial authorities were dismissed before trial. 42% of the actions resulted in a conviction and 7% resulted in acquittals. There was a significant variation in the results of the judicial actions between the member states, they note. And if one reads the statistics, the detailed statistics from that report, page 22, one can see, for instance, that as regards Italy, there were 112 cases that were handed over to the Italian judicial authorities in the period of 2006 to 2011. And of those 112 cases, 75 of them were still pending. So one did not know whether the case was dismissed, whether there was convictions, or whether there were still prosecutions taking place. And in fact, of those cases, 21 were dismissed before going to any trial, and that is the Italian statistics. And the statistics is more or less the same for a number of member states, but one can see a variety of different handling of these cases, from 19% of cases that followed up on a prosecution, up to 90% or even 100% for some member states where there were prosecutions carried out. And this is the reason, I think, mainly for me, why I have changed my mind, because I think that if the statistics were to be 30% across the board in all member states, then probably there would be something wrong with OLAF's investigations and handing over of the cases. But now, since they are from 19 up to 100%, I don't think that there is something wrong with OLAF's investigations. I think that there is something wrong in the member states. And that is probably the reason why we would need a European public prosecutor, because that European public prosecutor would be able at least to contribute to greater coherence. There are, of course, differences in the results also in the member states, the different length of judicial proceedings and so on. We cannot do that much to that at the European Union level, but at least we can bring some more coherence in relation to this file. So this is one of the reasons, and there is a lot of more statistics as well, if one reads the OLAF's report, why I have actually changed my mind. Now, as some of you in the audience know, I have been participating in a number of conferences on the EPPO recently. I think that this is the fifth one that I have in the recent 3 months. But I must say that that this particular conference is interesting because it deals with fundamental rights. And that, I think, is a very interesting aspect of the whole EPPO project. I know that there are some persons that say that fundamental rights and EPPO, it's not a problem, because they say that everything will be done under national law, and we are all parties to the European Convention on Human Rights. We have the Charter of Fundamental Rights, which is part of the treaty, so there is no problem. I do not think that is correct. And as we heard now Vice President Reding in her video message, the Commission will also apparently propose some rules in relation to the procedural safeguards. So that will be very interesting to see. My experience is, of course, that to harmonize criminal material law, that is relatively easy, because then you can just simply say that this conduct is punishable. Whereas if you want to harmonize the criminal procedural law, that is much, much more difficult, because our legal systems are so different. But there is one thing here that makes me believe that, after all, it may be a little bit more easy this time, because what we will do, and we have to do it because the treaty says that we have to do it, we will have a regulation. We will not have a directive. We will have a regulation that will be directly applicable as if it were our own national law. It will become the law of Italy. It will become the law of any other participating member state in the European Union. So this particular regulation will, so to say, be integrated into the national legal system. It will have primacy even over constitutional law, that is clear case law from the European Court of Justice in relation to that. I know that for criminal law lawyers this is very inconvenient to say, because criminal law is extremely territorial and extremely jealous to safeguard its national law. But this is a fact of European law, that this regulation will become part of the national legal system. So I think that perhaps if we start to think in those terms, it will be easier to, or shall we say, more palatable to try to understand that we may need to have some procedural safeguards. Mrs. Reding mentioned three of them. I don't know exactly what the Commission will propose. I hope that they will come up with their proposal on the 2nd of July. This is the date that I heard a couple of days ago. So let us see if they will be able to do that. If one looks at the draft EU model rules of criminal procedure that was adopted by a group of academics and practitioners that had a discussion, a project under the leadership of Professor Ligeti in Luxembourg, then one can see that there is one of the rules which deals with the rights of the suspect. And I think that they, to some extent, they correspond also to the OLAF regulation, which of course deals with administrative investigations. And Mr. Geiler already mentioned some of them. But just to recall the rights of the suspects that were dealt with there. The right to legal assistance, the privilege against self-incrimination, that is also the right to remain silent. The right to be informed by the EPPO that any statement the suspect made during the questioning may be used as evidence against the suspect. The right to an interpreter and to a translation. The right to gather evidence and to collect evidence on the behalf of the suspect. The right of access of materials. The right to be given a letter setting out the rights. The right to be promptly informed by the EPPO that he is suspected of a criminal offense. So those are the rights that are mentioned there. I don't know whether the Commission will propose all of them, but apparently from what we just heard, some of them. So we will see what will be the reaction of the Member States to this proposal, because it will probably be the first time that we will use a regulation to try to harmonize procedural law. We have done that, as some of you may know, through the so-called roadmap of accused and suspects in criminal proceedings. We have adopted Measure A and Measure B on translation and interpretation, on the letter of rights, and we have very recently, just 2 weeks ago, reached an agreement with the European Parliament on the access to lawyer as well. So there we have made some good progress. Is it enough to rely on national law? Well, I don't think it is that. Because in any case, even if we will have no procedural safeguards, I hope that we will have, I think that we should have it, it makes the project more credible. But even if we don't have that, there are certain other aspects relating to fundamental rights, which are definitely necessary. For instance, data protection. EPPO will need to handle personal data also at central level, so to say, not only at national level. And there is no doubt in my mind that EPPO will have to have some kind of case management system. We are talking about perhaps 2,000, 3,000 cases if we are talking about the more serious ones. If EPPO will have an exclusive competence also to deal with small cases, I think that that probably might not happen, but if he does, he will probably have to deal with 10,000 cases or more. I know that in one of our bigger member states, not Italy, this time they have about 2,000 to 3,000 customs-related cases, small cases sometimes, smuggling of a bottle of vodka. So you can guess which member states I'm talking about. But so if that type of case also will have to be dealt with by EPPO, we are talking probably about lots of cases. But this also makes me say that I think that the EPPO should not deal with the de minimis cases. Probably that would probably be wise to let that go through the national authorities and national procedures. So certainly in that relation. Another example that I'm taking in this context is that the EPPO will also be the one choosing where to prosecute. So let us say that he has, and this is an old example that I'm taking, let us say that he has the option of prosecuting a person in Finland, where Finnish criminal code provides for 5 years imprisonment, or the EPPO could prosecute the case in Spain, and for that particular offence, the criminal code would say that it is 20 years imprisonment. You can of course understand that the suspect would rather probably have his case prosecuted in Finland rather than in Spain, because there he risks 20 years imprisonment. So I think that there has to be some kind of judicial review in relation to this type of decisions, because the suspect cannot ask a Finnish court to go to Spain or ask a Spanish court to go to Finland. I don't think that that would be possible. So we will probably need to have some kind of European court, a chamber of the Court of Justice or something in that relation. I cannot see how we can be without that in particular in relation to this. I don't have fantasy enough to guess that. May I also mention, because Mr. Geyer mentioned the question of the financial interest, the Council made a so-called general approach, that is a kind of a political negotiating position last week on the 6th of June in Luxembourg. If you are interested, you can read its document 10729/13. It's a publicly available document on the Council's website, and you will see there the Council general approach. You will also see in that document that the Council states that the legal basis will be changed from Article 325 to 83.2, as was also mentioned. And there, in the public deliberation, which you also can see, by the way, on the Council's website, because it was a public deliberation, you will see that the Council's legal service took the floor and said that the fact that Denmark will be out and the fact that Ireland and the United Kingdom will have the possibility of not opting in to the directive is not to be taken into account when the legal basis is decided. The legal service recalled the case law of the Court of Justice that says that it is only objective factors which are amenable to judicial review. So the procedural consequences of a decision on the legal basis are not, they are politically relevant, but they are not juridically relevant. This was roughly what the Council Legal Service said in its public statement there. May I also recall some things that we sometimes seem to forget when we talk about the EPPO, because we make some kind of comparison to Eurojust and the Eurojust coordination and encouraging function. I do not think personally that one can compare the two bodies, Eurojust and EPPO, even if I am very much in favor of the work of Eurojust. And the reason for that is that I think that we are talking about two different concepts. Eurojust is a body which has as its main task to coordinate, to cooperate with national authorities. EPPO will be deciding, also deciding over national authorities. However those decisions will be taken, that is a matter for the negotiation. But the treaty says in Article 86 that EPPO is responsible, this is the word which is being used, responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment. Eurojust is not responsible for that. Eurojust is supporting, coordinating, and so on, but Eurojust does not take any decisions. EPPO decides. EPPO directs the investigation. EPPO will put obligations on the member states' national authorities to cooperate. And this is the key point, because this is what causes a lot of discussion and a lot of problems in relation to constitutional law in particular, because in many member states, I think here in Italy, I remember the discussions on the European arrest warrant in 2001 and the constitutional protection of prosecutors in this country. I don't know if the constitution has been changed or not, but certainly at that time when we studied the Italian constitution, we saw how constitutionally protected the prosecution authorities are in Italy. But of course, here again, one could say, as I started to say, well, but this is no problem really, that you have a constitution which protects the prosecutors, because here they will prosecute on behalf of EPPO, and they will do that with a legal basis, a regulation. And that regulation even has primacy over constitutional law, and it will in fact be part of the Italian law. So where is the constitutional problem? I think that there is of course a problem here, but is it really a problem under constitutional law, or are we making this a problem when we analyze the whole specter of problems here? I'm just putting the question here. EPPO is a very difficult project. We have been talking about this for nearly 20 years. And now when you start to draft, when you start to put the thinking on paper, one realizes how difficult the project is. In relation to the fundamental rights issues, for sure, the rights of suspects, the decisions on coercive measures, who is taking them, in relation to the judicial supervision, does the European Court of Justice have a possibility even to see these types of cases? Because the Court of Justice is like any other European Union institution based on the principle of conferred powers. Have we conferred these types of powers of judicial supervision on the European Court of Justice? There are various meanings and various opinions on that issue. Not mentioning all the other questions relating to exchange of information, work with the third countries, and so on. Let me make the point that some of these cases are actually linked to the structures, or some of the solutions are linked to the structures that the European Commission will propose. What we understand from the Commission, they have said that publicly, and Mrs. Reding was quite outspoken recently, just in her video message as well, is that the Commission will propose seemingly a chief prosecutor, perhaps with some deputies, and then they will have delegates with double hats in each member state. And these delegates are the ones that will prosecute and investigate under national law. So it seems that the European Commission believes that these delegates, the double-hatted delegates, will solve more or less any problem because they are doing this under national law. I think that it is a viable solution, but I think also that the double hat creates also some problems which will have to be solved if one were to adopt that method. And that that is in particular the question of the fact that you will have two masters. I have two masters. One is my Secretary General and the other one is my wife. Very often my wife wins over the Secretary General, but sometimes the Secretary General wins over my wife. So it's not so easy when you have two masters. We all realize that. So how will this be solved in practice? I think that this will be one of the more difficult topics in the negotiation that we will have. I still remember what a prosecutor general from the Czech Republic said in a conference in Berlin in February of this year. He said, if I have a prosecutor who doesn't obey me or who doesn't do what he wants, whether or not he is EPO or not, I can move him because he is mine. I pay his salary, among other things. And that's another question. Who will pay the salary of the double hat? And what about his pension rights, by the way? You see, it's very difficult, all this. Let me also say that we are discussing these questions relating to minor cases. We have also discussed the issue concerning VAT fraud. And there the common approach of the Council is now that VAT is not inside the text. So we will see, this will no doubt be one of the topics that we will have to discuss with the European Parliament. But but there were, in fact, a very strong majority of the member states that took the floor in the Council and that has taken the floor previously. So it will be a very difficult issue, I can already now predict. We have also discussed quite a lot the issue of exclusive competence of the EPO. Should the EPO actually have exclusive competence, even when the case concerns only one member state? One can ask that question. But possibly there would be a reason for that, and that is that that member state is not efficient in prosecuting the union's financial interest. So that may not be a reason for excluding that from the competence. I think I have spoken too much, too long already. Let me just recall that there have to be some rules for cooperation between the EPPO and the national authorities, rules regarding reporting obligations, rules regarding urgent measures before any decision on opening of an investigation has been taken, rules regarding access to national registers, for instance. EPPO perhaps it might not need so often to have access to a DNA register, but he sure should have access to license plates and things like that, which are important in national investigations. And then we have the whole block of discussions, what will happen if we have an enhanced cooperation, and what will happen with the cooperation with the non-participating member state. Denmark, for sure, we know will be out. They are out totally of EPPO because of their, well, they haven't had the referendum that is necessary yet. And UK and Ireland will most probably also be out. Certainly UK has it inscribed in their European Union law that they will not come into the EPPO unless there is a referendum. And then what will happen to the EPPO's cooperation with third countries, because EPPO is not a contracting party to the Organized Crime Convention of the United Nations, the Palermo Convention. So can EPPO send the letters rogatory, and can that be done via the national delegate? Well, as you can see, there are a number of questions. There are also some solutions in relation to all these issues. For instance, there are some member states that believe that a collegiate model is a much more viable option than one single prosecutor, because that would create more legitimacy for the prosecutor. If the order, so to say, comes from a nationally nominated but independent prosecutor, that might make it more palatable for the member states. But we will see. All this is up for negotiations. They will start during the Lithuanian presidency, and I think that we will have quite interesting discussions in this project. This project is so difficult, so I think that it can be compared to setting up the euro. Thank you very much. Vincenzo, Mr. Nilsson, for your very, very interesting intervention. Now, ora il Madame Michelle Konings purtroppo non sta bene. Noi le facciamo i nostri più vivi auguri di ristabilirsi presto. Il suo PowerPoint è stato stampato e lo troverete nelle vostre cartelle. Sicché chiudiamo qui la seduta di oggi e ci rivediamo domattina nello stesso luogo alle 9.30. Buonasera a tutti. Grazie.